567. Budino di nocciuole, avellane. Latte decilitri 7, uova numero 6, nocciuole sgusciate grammi 200, zucchero grammi 180, savoiardi grammi 150, burro grammi 20, odore di vaniglia. Sbucciate le nocciuole nell'acqua calda ed asciugatele bene al sole o al fuoco, indi pestatele finissime nel mortaio con lo zucchero versato poco per volta. Mettete il latte al fuoco e quando sarà entrato in bollore, sminuzzateci dentro i savoiardi e fateli bollire per 5 minuti, aggiungendovi il burro. Passate il composto dall'ostaccio e rimettetelo al fuoco con le nocciuole pestate per risciogliervi dentro lo zucchero. Lasciatelo poi ghiacciare per aggiungervi le uova, prima i rossi, dopo le chiare montate. Versatelo in uno stampo unto di burro e spolverizzato di pan grattato, che non venga del tutto pieno. Cuocetelo in forno o nel fornello e servitelo freddo. Questa dose potrà bastare per 9 o 10 persone.